simbologia della lepre e condanna dei rapporti sessuali illeciti. Mosè proibisce anche di mangiare la lepre. In effetti, la lepre si accoppia in ogni stagione e quando la femmina è accovacciata per terra, il maschio la monta di dietro. È infatti un animale che si accoppia da dietro. Concepisce ogni mese e partorisce. Si accoppia e partorisce. E dopo aver partorito si lascia montare da qualunque maschio di lepre capiti, poiché una sola unione non le basta. Concepisce quando ancora sta allattando. La sua matrice è infatti è doppia e non solo la cavità della matrice la stimola all'accoppiamento, poiché ogni vuoto brama di essere riempito, ma accade anche che mentre è gravida l'altra parte della matrice sia presa da desiderio e vada in calore. Per questo può concepire di nuovo prima di aver partorito. L'enigmatica proibizione di mangiare la lepre allude dunque al dovere che abbiamo di astenerci dai desideri eccessivi, dagli accoppiamenti continui, dall'aver rapporti con le donne gravide, dall'omosessualità, dalla pederastia, dalla fornicazione e dalla lascivia. Perciò lo stesso Mosè, non più con enigmi ma a volto scoperto, ha esplicitamente pronunciato questi divieti. Non commetterai fornicazione, non commetterai adulterio, non commetterai pederastia. Questo ordine del Logos deve essere osservato con tutte le nostre forze e non bisogna in nessun caso assolutamente trasgredirlo oppure accantonare questi precetti. Il desiderio cattivo, infatti, si chiama tracotanza, ibris, e Platone denominò il cavallo della concupiscenza tracotante, poiché aveva letto nella scrittura «Siete divenuti ai miei occhi come cavalli smaniosi di femmine». E quale sia il castigo per tale tracotanza ve lo insegneranno gli angeli che scesero su Sodoma. Bruciarono in quella città coloro che avevano voluto fare esperienza della turpitudine su se stessi. Così gli angeli ci hanno lasciato una chiara indicazione che la ricompensa della lascivia è il fuoco. Le disgrazie degli antichi, infatti, come abbiamo già detto, sono state riportate per iscritto come ammonimento per noi, affinché non ci macchiamo anche noi delle stesse colpe e ci guardiamo dal cadere in simili sventure. Bisogna dunque considerare come propri figli i fanciulli e guardare alle donne altrui come se fossero le proprie figlie e con grande autorità tenere a bada i piaceri e padroneggiare il ventre e ciò che vi è sotto. Se, come affermano gli stoici, il Logos non permette al sapiente neppure di muovere un dito a caso, molto più coloro che perseguono la sapienza devono avere saldo dominio sugli organi della riproduzione. Per questo, mi pare, essi sono chiamati pudenda, perché di questa parte del corpo, più che di qualunque altra, bisogna servirsi con pudore. La natura, infatti, come per l'alimentazione, così per l'unione legittima, ci ha concesso di fare tutto ciò che è congruo, utile e buono, e ci ha permesso di desiderare la procreazione dei figli. Quanti invece perseguono l'eccesso vanno a urtare contro le leggi di natura e praticando unioni illegittime danneggiano se stessi. Soprattutto ci si attenga rettamente a non avere mai con i giovani rapporti sessuali come si hanno con donna. Per questo il filosofo discepolo di Mosè raccomanda di non spargere il seme sulla pietra o sui sassi, poiché giammai ivi potrà mettere radici e generare vita secondo la sua natura. Con grande chiarezza il Logos, per bocca di Mosè, ci ha comandato: non giacerai con uomo nel modo in cui si giace con donna, è abominio. Inoltre che ci si debba astenere da ogni campo di donna, eccetto che dal proprio, ce lo ha consigliato il grande Platone, il quale lo ha dedotto dalle sacre scritture e da esse ha preso questa legge. E con la donna del tuo prossimo non giacerai per seminarla, contaminandoti con lei. Ciò infatti che si semina nelle concubine è empio e illegittimo. Non seminare là dove non vorresti che crescesse ciò che hai seminato e non toccare in nessun caso una donna se non tua moglie, dalla quale sola è giusto raccogliere i frutti dei piaceri carnali in vista di una prole legittima. Solo ciò infatti è lecito agli occhi del Logos. Coloro che sono partecipi dell'opera creatrice di Dio non devono gettar via il loro seme né fargli oltraggio né seminare seme sterile. Questo stesso Mosè però proibisce anche di accostarsi persino alle proprie mogli quando esse si trovano ad avere le loro regole mensili. Non è infatti conforme al Logos insozzare con l'impurità del corpo la nobile fertilità del seme che di lì a poco diventerebbe un essere umano e annegare nello sporco flusso della materia e nello scolo impuro il seme che è il germe di una fausta nascita privato dei solchi dell'utero. Del resto Mosè non ci ha lasciato alcun esempio di uomo tra gli antichi ebrei che si sia unito a sua moglie mentre essa era gravida. Il piacere da solo, infatti, anche se colto all'interno del matrimonio, è contrario alla legge, alla giustizia e al Logos. Mosè dunque vieta agli uomini le donne incinte fino a quando abbiano partorito. La matrice, infatti, si trova al di sotto della vescica e al di sopra dell'intestino chiamato retto e tende il suo collo come tra due spalle dentro la vescica. Ora, la bocca di questo collo, là dove viene immesso lo sperma, quando è stata riempita si chiude e si svuota solo quando con il parto si libera e, avendo dato il suo frutto, può di nuovo ricevere il seme. Invero, non è vergognoso per noi nominare questi organi della gestazione per il beneficio di chi ci ascolta, dal momento che Dio non si è vergognato di esserne il creatore. La matrice, avendo sete di procreare, accoglie il seme e ogni biasimo sull'unione carnale è escluso. Poi però, dopo l'inseminazione, mette da parte completamente la libidine chiudendo il suo orifizio. I suoi desideri, che fino a quel momento erano in fibrillazione anelando agli amplessi amorosi, ora si distolgono, intenti internamente alla formazione dell'embrione in collaborazione con il creatore. Quando la natura è al lavoro, è in pietà molestarla con atti superflui che sfociano nella tracotanza, ibris. Quest'ultima, invero, ha molti nomi e molte facce, ma quando si dispiega in questo contesto del disordine sessuale, è chiamata lascivia, parola che esprime volgarità, grettezza, impudicizia e brama di accoppiamento, cose tutte che una volta cresciute generano una gran moltitudine di malattie. L'amore per la carne a tavola, per il vino, per le donne, il libertinaggio e ogni genere di ricerca del piacere, e su tutto ciò regna sovrana la concupiscenza. Accanto a queste cose poi si moltiplicano, come loro sorelle, innumerevoli passioni, le quali tutte insieme costituiscono lo stile di vita libertino. Come dice la scrittura, fruste si preparano per i libertini e castighi per le spalle degli stolti, dove chiama spalle degli stolti la forza del libertinaggio e la sua tenace permanenza. Perciò, dice, distogli i tuoi servi da speranze vuote, allontana da me i desideri sconvenienti e gli istinti del ventre e del sesso non mi afferrino. Bisogna respingere da lontano la molta malvagità dei cospiratori. Non solo infatti nella bisaccia di Cratete, ma neppure nella nostra comunità può fare irruzione lo stolto parassita, l'avido fornicatore orgoglioso del suo deretano, la perfida meretrice, né qualunque altra simile bestia da piacere. Da parte nostra si seminino per tutta la vita solo buone azioni. Dovere di moderarsi nei rapporti carnali. La questione che è oggetto di indagine, se in assoluto ci si debba sposare oppure astenersi completamente dal matrimonio, è stata da noi esposta nel trattato sulla continenza. Ora, se questo stesso tema sull'opportunità o meno del matrimonio ha necessitato un'indagine in proposito, come si potrebbe concedere semplicemente e impudentemente di servirsi in ogni momento del sesso alla pari del cibo, come di cosa necessaria? In verità si può ben constatare che in seguito a tali abusi i nervi, come fili di un telaio, si consumano e per la tensione del continuo rapporto carnale si spezzano. Un'altra conseguenza è che gli organi di senso si annebbiano e l'energia crolla. Ciò è evidente sia negli animali irrazionali sia in coloro che si allenano in sforzi fisici. Tra questi ultimi, quelli che si astengono da rapporti hanno la meglio sui loro avversari nelle gare. Gli animali poi possono essere allontanati dall'accoppiamento solo se tirati o addirittura trascinati via, essendo essi in quel frangente totalmente privi di ogni energia e di ogni slancio. Il saggio di Abdera, Democrito, diceva che il sesso è una piccola epilessia e lo considerava una malattia incurabile. Ad essa non segue infatti un infiacchimento proporzionato all'entità della perdita seminale. Invero, un uomo nasce da un uomo e ne è strappato via. Considera la portata del danno. Un uomo tutto intero viene portato via durante l'emissione seminale. Come sta scritto, ecco, questo è osso delle mie ossa e carne della mia carne. Dunque l'uomo viene privato con lo sperma di tanta sostanza quanto si vede in un corpo, giacché è ciò che viene portato via che costituisce il principio della nuova nascita. Questo ribollimento di materia, inoltre, turba e urta l'armonia del corpo. Davvero intelligente fu colui che a un tale che gli chiedeva come si trovasse in rapporto ai piaceri carnali rispose: «Tace, amico, è con grande gioia che li ho sfuggiti come si fugge da un padrone furioso e selvaggio». Tuttavia il matrimonio deve essere accettato e collocato al suo giusto posto. Il Signore infatti vuole che l'umanità si moltiplichi, ma non ha detto «siate libertini», né ha voluto che ci lanciassimo nei piaceri come se fossimo nati per l'accoppiamento. Ci faccia arrossire quel che il pedagogo per bocca di Ezechiele ci grida: «Circoncidetevi dalla vostra fornicazione». Perfino gli animali irrazionali hanno un tempo stabilito adatto alla fecondazione, ma unirsi senza avere per scopo la procreazione di figli è un oltraggio alla natura. Bisogna invece prendere la natura per maestra e osservare le sue sapienti disposizioni pedagogiche con cui essa stabilisce un tempo adatto. All'età senile essa non concede più di usare del matrimonio e all'età infantile non lo concede ancora. Oppure non ci si sposi affatto. Il matrimonio è la volontà di generare figli, non l'indisciplinata emissione di sperma, cosa contraria alla legge e al logos. Condanna dell'aborto e definizione dei tempi adatti all'unione carnale. Tutta la nostra vita può trascorrere secondo natura se padroneggiamo i nostri desideri alla radice stessa e non uccidiamo con le macchinazioni di un'arte perversa la generazione di un essere umano che la divina provvidenza ha fatto nascere. Queste donne, invero, che per nascondere le loro fornicazioni ricorrono a farmaci letali che aggrediscono il feto fino a distruggerlo, abortiscono insieme all'embrione anche il loro sentimento di umanità. Ora, quelli a cui è permesso usare del matrimonio hanno bisogno di un pedagogo affinché non celebrino i misteri della natura durante il giorno e non si uniscano fra loro la mattina come fa il gallo, tornando per esempio dalla chiesa o dal mercato, essendo quello il tempo per la preghiera, per la lettura e per le buone azioni che si compiono di giorno. La sera invece, dopo aver cenato e aver reso grazie per i doni di cui si è goduto, è giusto andare a riposarsi. La natura non ci concede sempre il momento adatto per compiere l'unione coniugale, la quale più è differita nel tempo, più è desiderabile. D'altronde, neppure di notte ci si deve abbandonare alla dissolutezza con il pretesto del buio, ma bisogna piuttosto custodire nella propria anima il pudore come lucerna della ragione. In nulla, infatti, differiremo da Penelope che tesseva la tela se di giorno ci confezioniamo una fama di castità e la notte poi la sciogliamo appena andiamo a letto. Se infatti bisogna addestrarsi ad avere un contegno nobile, come è giusto, questa nobiltà deve essere mostrata prima di tutti alla propria moglie, evitando congiungimenti indecorosi. Così la fiducia e la garanzia della propria illibatezza nei confronti degli altri cominci da dentro casa. Non è possibile, infatti, davvero non è possibile essere creduto di nobile indole da colei alla quale non si è in grado di dare testimonianza di tale nobiltà, nel mezzo stesso dei più ardenti piaceri. Un amore, inoltre, che confessa di essere sempre incline alla lussuria, fiorisce per poco e invecchia insieme al corpo, o addirittura prima di esso con l'appassire del desiderio. Ciò avviene quando la castità coniugale sia stata oltraggiata da piaceri degni di postriboli. I cuori di chi ama volano via e si spegne nel pentimento l'incanto dei piaceri, e spesso l'amore si volge a odio quando si è sazi e ci si accorge della condanna. Anche in seno all'unione coniugale si deve mantenere il pudore. Di parole licenziose, di comportamenti indecenti, di baci da prostitute e di altre simili lascivie, non bisogna neppure fare menzione, obbedendo al Beato Apostolo che esplicitamente afferma: «La fornicazione, ogni impurità e brama non siano neppure nominati fra voi, come si addice a persone sante». E ben disse un tale: «L'unione carnale non giova a nessuno, ed è già cosa buona se non crea danni. Quando essa è legittima, è comunque pericolosa, a meno che sia rivolta alla procreazione. Se poi è contro la legge, allora di essa dice la scrittura: una donna mercenaria sarà valutata come un maiale, la maritata è una torre di morte per coloro che la usano. Paragona dunque a un capro o a un porco la passione per le prostitute, e dice che l'adulterio commesso con una meretrice è una morte voluta. Una casa o una città dove si pratichi la lussuria sono biasimate anche dalla vostra poesia. Presso di te vi sono adulteri e unioni illecite di uomini, effeminate ingiuste o città malvagia totalmente impura». E poi esprime ammirazione per le persone caste, che non nutrono turpe brama del letto altrui, né si gettano su altro maschio oltraggio abominevole e odioso, perché è contro natura. I più credono che il piacere consista in questi loro peccati. Le persone più ragionevoli, in vero, riconoscono che si tratta di peccati, ma sono dominati dalla voluttà. Le tenebre fanno loro da copertura per le passioni. In verità commette adulterio in seno al suo stesso matrimonio chi usa sua moglie come una concubina e non ascolta il grido del pedagogo. Ecco, l'uomo che sale sul suo letto e dice alla sua anima: «Chi mi vede? Il buio è intorno a me, i muri mi coprono e nessuno vede i miei peccati. Perché stare in guardia? Non ci farà caso l'Altissimo». Costui è un miserabile che teme solo gli occhi degli uomini e crede di sfuggire a Dio. Non sa, dice la Scrittura, che gli occhi dell'Altissimo Signore sono mille volte più penetranti del sole e osservano tutti i sentieri degli uomini e conoscono i luoghi più nascosti. Per questo il pedagogo minaccia per bocca di Isaia dicendo: «Guai a quelli che tramano nel segreto e dicono: chi mi vede? Qualcuno sfuggirà forse alla luce materiale, ma è impossibile che sfugga a quella spirituale, ovvero, come dice Eraclito, come ci si può sottrarre all'astro che mai non tramonta? Non nascondiamoci dunque nell'oscurità, poiché la luce è dentro di noi e le tenebre, dice, non la afferrano. Al contrario, la notte è illuminata da una mente casta. Infatti la Scrittura chiama lucerne sempre accese i pensieri degli uomini buoni». Il fatto stesso di cercare di rimanere non visti per ciò che si fa significa ammettere che si sta peccando, e chiunque pecca per ciò stesso commette un'ingiustizia, non tanto verso il prossimo, ad esempio con l'adulterio, quanto verso se stesso, perché sa di aver commesso adulterio. In ogni modo, ciò lo rende peggiore e più miserabile. Chi pecca, infatti, per il fatto stesso di peccare, diventa peggiore e più miserabile di quel che era innanzi. E a chi è dominato da un turpe piacere viene ad aggiungersi anche il disordine morale. Perciò l'adultero è completamente morto agli occhi di Dio ed è abbandonato, come un cadavere, dal Logos e dallo Spirito. Ciò che è santo, infatti, abborrisce dall'essere contaminato, come è evidente, mentre al puro è sempre lecito entrare in contatto con il puro. Perciò non avvenga mai che, spogliandoci del vestito, ci spogliamo anche del pudore, giacché al giusto non è mai lecito spogliarsi della castità. Ecco, infatti, che questo corpo corruttibile si rivestirà di incorruttibilità, allorché l'insaziabilità della concupiscenza che porta al libertinaggio sottomessa alla pedagogia della continenza e non più amante della corruzione, lascerà il posto nell'uomo ad un'eterna castità. In questa vita, infatti, prendono moglie e prendono marito, ma poi, una volta che abbiamo abbandonato le opere della carne e abbiamo rivestito di incorruttibilità questa stessa carne ormai pura, possiamo perseguire il traguardo degli angeli. In questo senso anche Platone, il discepolo della filosofia barbarica, chiama profeticamente nel Filebo atei, coloro che vivendo tra le passioni corrompono e contaminano, per quanto è loro possibile, il Dio che dimora in essi, cioè il Logos. Chi è consacrato a Dio non deve più vivere una vita mortale e, come dice San Paolo, non deve fare delle membra di Cristo le membra di una prostituta e del Tempio di Dio un tempio dalle passioni vergognose. Ricordatevi di quei 24.000 che furono respinti a causa della loro fornicazione. Ricordatevi di ciò che subirono i fornicatori. Questi sono esempi, come già dissi, che ci servono da pedagoghi per mettere un freno alle nostre concupiscenze. Il pedagogo assai chiaramente ci mette in guardia. Non seguire le tue concupiscenze e trattieniti dai tuoi desideri, poiché il vino e le donne faranno deviare gli assennati, e chi va dietro alle prostitute ne uscirà ancor più temerario. Diventerà possesso di vermi e tignole, sarà consumato e rimarrà come grande esempio. E ancora, non si stanca mai infatti la scrittura di giovare, chi fa resistenza al piacere corona la sua vita. Pertanto è giusto non lasciarsi dominare dal sesso, né rimanere a bocca aperta davanti alle concupiscenze, né lasciarsi stravolgere dai desideri contrari al Logos, né bramare di contaminarsi. A un uomo sposato, come ad un agricoltore, non è permesso seminare se non quando è il momento adatto perché il seme sia accolto.